Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata della mia trasmissione. Subito la mail: un abuso al giorno @radio24.it. Vi ricordo il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sulla prima pagina del Sole 24 Ore online, oppure potete digitare robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Anche lì tratto di temi di legalità, diritti violati e criminalità organizzata, così come del resto faccio da 2 anni a questa parte a Radio 24. Allora, oggi trattiamo di un caso molto interessante che riguarda un singolo, ma riguarda chissà quanti di voi in questo momento all'ascolto, che avete stipulato dei mutui non propriamente chiari per acquistare la prima casa. Noi lo facciamo con una lettera che trascina una storia giudiziaria non solo molto complessa, che ci è giunta da un radioascoltatore della provincia di Padova. Questo radioascoltatore si chiama Alfredo Belluco e scrive testualmente nella sua lettera che ha firmato un contratto in cui non era neppure indicato lo spread e il parametro di riferimento. Insomma, una formula contrattuale assolutamente nebulosa, difficile da quantificare, a tutto danno ovviamente del cittadino, che ha visto una prima soluzione nelle aule di un tribunale circa 1 anno e mezzo fa, allorché il tribunale in primo grado ha dato ragione al nostro radioascoltatore Alfredo Belluco, che io ho in linea, al quale do il benvenuto. Salve Belluco. Buongiorno. Allora, ci racconti brevemente, sinteticamente, la sua storia, diciamo così, di contenzioso con la banca. Diciamo che la banca in questione è Cariparo, che poi si è stata assorbita da un altro gruppo creditizio, come poi sentiremo in una lettera che abbiamo fatto registrare per voi. Prego Belluco. Il contratto è stato stipulato dallo studio Pietrantoni e Vaudano di Padova con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, adesso si chiama Cassa di Risparmio del Veneto, del gruppo Intesa San Paolo. A quel tempo non c'era l'Euribor, non c'erano i parametri di riferimento, c'era una formula talmente astratta e nebulosa che nessuno, nemmeno la Banca d'Italia, è stato in grado di darne un giudizio. Adesso io la leggo brevemente. È facoltà della Cassa di Risparmio di modificare, previo avviso da darsi con lettera raccomandata almeno un mese prima, la misura del tasso di interesse in relazione ai tassi correnti di mercato applicati dalle casse di risparmio, dalle aziende di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale per le nuove operazioni ipotecarie della specie a medio e lungo termine. Ecco, senza entrare troppo nello specifico, perché i nostri radioascoltatori non seguono il filo di questioni così tecnicistiche e aberranti. Spiego subito. Questa era solo aria fritta. Oh, ecco, diciamolo così. Praticamente, quindi, erano delle norme che tutelavano in maniera stringente la banca, ma che probabilmente non davano la stessa tutela al cittadino, giusto? Sì, qui noi abbiamo fatto la causa e dopo c'è stata la perizia tecnica del tribunale, che ci ha dato perfettamente ragione, perché naturalmente leggo uno straccio della perizia: è emerso chiaramente, per quanto esposto nel corso della presente e vista la documentazione prodotta agli atti, che le modalità di calcolo del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo non sono state indicate con trasparenza. Questo è tra virgolettato a pagina 23 della perizia. E questo è molto molto chiaro, al punto tale che il tribunale ovviamente le ha dato ragione, lei si è visto riconoscere la restituzione di circa 4.000 euro oltre agli interessi nella misura legale nel frattempo che lei aveva diritto a percepire. Cari radioascoltatori, questa vicenda ovviamente l'abbiamo presa come rappresentativa, ma ce ne sono migliaia in corso in Italia in questo momento. Un abuso quindi riconosciuto in primo grado ad uno di noi, ad uno di voi, ad un cittadino qualunque. Allora, pensate che c'è un abuso nell'abuso, lo accenniamo soltanto brevemente. La banca ha fatto ricorso in appello, logico attendersi anche questo. Sapete per quando è stato fissato la prima udienza in appello? per il 23 marzo 2015. Io francamente mi vergogno anche a dirlo. Belluco, lei si vergogna? Io mi sono vergognato in modo tale che ho fatto di tutto perché venisse avvicinato, e adesso sembrerebbe che fosse stato portato per il 14 dicembre del 2009 per espresso interessamento della Corte d'Appello di Venezia, perché si vergognavano anche loro. Certo, anche perché qui, cari cittadini, se non rompiamo le scatole, scusate la mini volgarità di questa mia affermazione, non otteniamo niente. Bene ha fatto quindi Belluco a trascinare con sé anche gli avvocati e la Corte d'Appello di Venezia nel tentare appunto di ravvicinare l'udienza. Io però vorrei dare la parola a questo punto al presidente dell'Adusbef, Elio Lannuti, che è collegato. Salve Lannuti e bentornato in trasmissione. Volevo chiederle, la colpisce questa storia o ne ha viste talmente tante che non le dice, non le aggiunge assolutamente nulla? Ci sono ordinari soprusi del sistema bancario, questo è uno dei tanti. E quello che colpisce, oltre diciamo alla protervia delle banche, perché se riconosce l'errore dovrebbe risarcire senza aspettare il 2015, quello che colpisce ancora di più è questi tempi della giustizia. Sono tempi lunghi, anche sui bond argentini, Cirio, ci sono diciamo udienze fissate a 85 anni, fissate nel 2015-2016. Noi su queste cose, io anche insomma in altre qualità, stiamo cercando di migliorare questi rapporti, però la banca dovrebbe pagare intanto questi 4.000 euro e io ritengo che si possa almeno far eseguire questa sentenza, nel senso che questa è una sentenza esecutiva in attesa poi del giudizio della Corte d'Appello. Assolutamente d'accordo con lei, anche perché se la prima udienza si fissa per il 2015, figuriamoci quando si fissa la seconda, e poi provate ad immaginare che potrebbe esserci un ricorso in Cassazione, anche lì anni d'attesa. Probabilmente i nipoti di Belluco forse potrebbero avere una parola definitiva messa per sempre dalla giustizia italiana alla sua causa. Ma le chiedo Lannuti, lei diceva che ne ho viste tante, ne ho sentite tante, ma dal punto di vista, diciamo così, concreto, non esiste nulla e nessuno che possa spingere gli operatori bancari a dare un segno di trasparenza quando si stipula un contratto. È possibile che bisogna rivolgersi alle radio, ad Adusbef, all'associazione dei consumatori, per cercare di avere giustizia? Ma insomma, ma in che paese viviamo, Lannuti? Viviamo in una Repubblica delle Banche, anche il titolo di un libro, questa è la Repubblica delle Banche, dove ci sono dirigenti bancari che hanno guadagnato 26-27 mila euro al giorno, hanno combinato dei disastri, poi dicono che da noi è meno disastrosa la vicenda che negli altri paesi, ma questo non ci consola, e continuano a stare indisturbati. Il governo, tutti i governi continuano ad andare a braccetto con i banchieri, e come diceva Ezra Pound, i governi fanno i maggiordomi dei banchieri. Voi sapete, gli ascoltatori sanno, che io ho speso una vita per difendere i diritti, che continuerò a spendere una vita per difendere i diritti, ma di fronte ai muri di gomma, di fronte a una Banca d'Italia che dovrebbe essere super partes, dovrebbe sanzionare questi comportamenti, di fronte a questo, ma che bisogna fare? Più che andarci a incatenare davanti alla Banca d'Italia come quello che noi abbiamo fatto, che cosa bisogna fare? Bisognerebbe fare qualche legge in più, e queste sono alcune cose che io ed altri stiamo cercando di fare: dare più garanzie, più diritti ai cittadini e togliere questa protervia a questi signori banchieri che, per esempio, il governo fa il decreto salva banche, le banche chiudono i rubinetti del credito anche alle piccole e medie imprese, non solo alle famiglie, non succede nulla, non accade nulla. Questi continuano a fare quello che vogliono. Benissimo, allora io ringrazio ovviamente il presidente dell'Adusbef, Elio Lannuti, ringrazio per quello che ci ha raccontato, ringrazio il nostro radioascoltatore Belluco. Dico però a voi che la vicenda non termina qui. perché nella puntata di domani sentiremo altre voci molto interessanti su questo caso che, ripeto, è esplicativo di migliaia di casi, come abbiamo sentito anche dalla voce del presidente dell'Adusbef. Quindi grazie in regia Valeria Bernardi e in studio Laura Faggine nel ricordarvi ancora il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.